Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Dopo settimane di polemiche, pochi istanti fa si è dimessa il sindaco di Quarto, Rosa Capuozzo, espulsa nei giorni scorsi dal Movimento 5 Stelle. Una sconfitta politica e la vittoria della camorra, dice. Il via libera dal governo al concorso per 64.000 professori. L'esecutivo approva anche il decreto con le norme contro i fannulloni nel pubblico impiego. Mercati in recupero e Monte dei Paschi guadagna un teorico 25%. Renzi al Sole 24 Ore. C'è una manovra su alcune banche, ma il sistema è solido. Il caso Litvinenko, arriva il rapporto inglese che accusa direttamente Putin. Probabilmente l'ordine per l'omicidio partì da lui, dicono. Uscito dal carcere con copertine su chi, il perdono del Papa. Ora Pietro Maso, che massacrò i genitori nel 91, è indagato per estorsione su esposto delle sorelle. Apple investe in Italia, sarà a Napoli il centro europeo per lo sviluppo delle applicazioni per il sistema operativo di iPhone e iPad, 600 i posti di lavoro previsti. Una buona giornata da Simone Spezia e bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti, effettogiorno@radio24.it per scriverci, il 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. In apertura dunque una notizia di pochi minuti fa, la decisione del sindaco di Quarto, Rosa Capuozzo, di dimettersi. Lo ricorderete, lo abbiamo ampiamente raccontato nelle scorse settimane. La vicenda è un sindaco del Movimento 5 Stelle che aveva subito un presunto tentativo di estorsione da parte di un consigliere dello stesso Movimento 5 Stelle, poi espulso e che sarebbe in odore di camorra, o quantomeno avrebbe contatti con un imprenditore in odore di camorra che gli avrebbe assicurato i voti. Il Movimento 5 Stelle aveva deciso di espellerla proprio perché non aveva denunciato questo tentativo di estorsione. Ebbene, appunto, Rosa Capuozzo adesso si è dimessa, ha detto non ci sono i numeri. Sentiamo un passaggio del suo intervento in consiglio comunale di poco fa. 15 consiglieri, che sono 15 uomini e 15 donne, che hanno detto che avrebbero lottato con me, li ho guardati negli occhi e ci ho creduto a queste promesse. Evidentemente ci ho creduto solo io. È iniziato lo stillicidio delle dimissioni dei consiglieri con motivazioni ridicole. Per chi a giugno aveva assunto su di sé la responsabilità di amministrare questo paese. Io ho fatto un giuramento. Ho fatto un giuramento e l'ho rispettato finché ho potuto. Gli altri invece, quelli che si sono dimessi, evidentemente credevano di andare a fare una gita fuori porta. Ieri arrivo in comune ed apprendo che anche il Presidente del Consiglio vuole dimettersi. È davvero, ovviamente, troppo. Per questo e per tutto quello che vi ho detto, ho deciso di lasciare. Lascio dopo 7 mesi che mi sono sembrati anni, sono stati in effetti abbastanza difficili, però la mia non è una resa, è un gesto di responsabilità e di amore per Quarto che non può essere, insomma, denigrata e strumentalizzata in questo modo. Queste dunque le parole di Rosa Capuozzo, che tra l'altro stiamo cercando di raggiungere, vedremo se ci riusciremo nel corso della trasmissione. Ovviamente sono ore difficili queste per il sindaco, a questo punto possiamo dire l'ex sindaco. Adesso parliamo però delle decisioni arrivate nel Consiglio dei Ministri finito nella notte, che toccano il mondo della scuola e quello del pubblico impiego più in generale, oltre che tutto il settore pubblico, a dire il vero. Iniziamo dall'istruzione, arriva il concorso per 63.000 persone. 3 bandi entro la prima settimana di febbraio e chi farà bene le prove a settembre salirà in cattedra, in tutto 63.712 insegnanti. Il premier Matteo Renzi e il ministro Giannini annunciano un nuovo concorso sulla scuola, attesi 200.000 candidati. Punteremo sulla qualità, spiega il premier, entrare nella scuola non è un diritto. Abbiamo sanato la questione dei precari, ma insegnare è una grande responsabilità. Il precariato comunque è finito, gli fa eco il ministro dell'istruzione. La delega prevede di far sì che i tirocini vengano fatti dopo che i futuri insegnanti sono già stati selezionati per fare gli insegnanti. Per risolvere il problema della supplentite, che la Giannini definisce una malattia cronica, ci vorranno però 2-3 anni, quando le riforme andranno a regime. In ogni caso sta diminuendo, come certifica i numeri, 5.700 le supplenze effettive quest'anno contro le 14.000 assegnate l'anno precedente. Livia Zancaner, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questo è il fronte per quanto riguarda la scuola, ma come si diceva, ieri sono stati varati anche una serie di decreti di attuazione della riforma della pubblica amministrazione e anche delle nuove norme contro i fannulloni. Vediamo di fare il punto con il nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Partiamo allora da quest'ultimo punto. Un decreto snello e con pochi articoli, quello sui cosiddetti furbetti del cartellino. Due punti di svolta, secondo il governo: la possibilità di punire in 48 ore con la sospensione dall'incarico e dalla retribuzione il dipendente pubblico che viene colto in flagranza a falsificare la sua presenza in servizio. Iter accelerato quindi per il licenziamento entro un mese a fronte dei 4 attuali. Ma la vera novità, ha commentato il presidente del Consiglio Renzi, è che il dirigente deve vigilare, se no lo licenziamo. Questo decreto, dice quindi il ministro della funzione pubblica Madia, vuole tutelare i dipendenti pubblici onesti. Sentiamo questo passaggio. Questa norma prima di tutto risponde a loro ed è una norma che però deve cambiare la realtà delle cose. E ovviamente abbiamo lasciato in caso di omissione di fatto la penalizzazione dell'omissione da parte del dirigente, così come abbiamo lasciato anche, come ha già detto il Presidente del Consiglio, il fatto che il dirigente che non si muova nei tempi prescritti dal decreto è lui passibile di licenziamento. La riforma della pubblica amministrazione si completa poi con altri 10 decreti attuativi, tra questi il taglio delle partecipate, la riforma dei porti, l'addio alla forestale, in 7.000 passano ai carabinieri, riordino quindi delle funzioni di polizia, maglie più strette nella selezione dei dirigenti ASL, per i servizi pubblici locali arrivano i distretti, tempi dimezzati per le grandi opere, lancio del PIN unico e della cittadinanza digitale, accesso liberalizzato infine agli archivi pubblici. È tutto, linea allo studio. Grazie anche a Vincenzo Miglietta per questi aggiornamenti, di questo torneremo a parlare più avanti col sottosegretario alla funzione pubblica Angelo Rughetti per farci spiegare un po' meglio, soprattutto sul lato delle partecipate, ovviamente delle norme contro i fannulloni. Veniamo all'altro grande tema di queste ore, che è quello che riguarda l'andamento dei mercati e in particolare di alcune banche. La giornata di oggi è positiva dopo il crollo di ieri, un più 1,23% sul FTSE MIB, un più 1,09% sul FTSE All Share. Si distingue questa volta in positivo il Monte dei Paschi. Chiara Di Cristoforo di Radio Cori Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Allora, dacci un'idea di quel che sta succedendo. Succede che c'è un piccolo rimbalzo rispetto ai cali che ci sono stati negli ultimi giorni, ma pur sempre un rimbalzo, più 1,15 come dicevi a Milano, un po' meno per le altre borse. Il petrolio va sempre giù, quindi non è questo il motivo del guadagno, più che altro diciamo gli investitori stanno cercando di ritrovare qualche spunto positivo e aspettano anche le dichiarazioni di Mario Draghi. Non ci dovrebbero essere grosse novità sul fronte della Banca Centrale Europea, anche se qualche affermazione, qualche frase sull'andamento proprio del prezzo del greggio e quindi sull'andamento dell'inflazione potrebbero dare spunti. Citavi il Monte dei Paschi di Siena, ieri lo ricordiamo aveva perso il 22%, non ha chiuso in positivo una seduta dall'inizio dell'anno, oggi recupera un 29,3%, in questo momento quasi il 30%, sono arrivate le rassicurazioni del governo, sia di Renzi in un'intervista al Sole 24 Ore che del Ministro dell'Economia Padoan sulla solidità della banca, sì, sulla solidità del sistema bancario e questo sicuramente ha aiutato. Anche gli analisti stanno iniziando a fare i conti e dicono che tutto sommato il sistema bancario italiano è solido e forse a questi prezzi conviene comprare. Monte dei Paschi appunto guadagna il 29,7%, Unicredit il 4,7%, Popolare Emilia Romagna il 4,2%, la Popolare di Milano il 3,13%. Torneremo ad aggiornarvi sui mercati come sempre alle 13.30 e sempre con la nostra Chiara Di Cristoforo, la quale citava già in parte le parole del Presidente del Consiglio Matteo Renzi in una lunga intervista oggi al Sole 24 Ore. Il servizio. C'è una manovra su alcune banche, ma il sistema è molto più solido di quello che alcuni investitori temono. Così il Premier Matteo Renzi, in un'intervista al direttore del Sole 24 Ore, rassicura sulla solidità del nostro paese e afferma che sulle banche non c'è nessun attacco all'Italia. Gli eventi di queste ore agevoleranno fusioni, aggregazioni, acquisti, è il mercato, bellezza, dice il Premier, aggiungendo che il Monte dei Paschi oggi è a prezzi incredibili e su questo istituto la soluzione migliore sarà quella che il mercato deciderà. un tema che affronta anche nella conferenza stampa di questa mattina al termine del Consiglio dei Ministri. C'è una turbolenza, questa turbolenza può essere un'occasione. L'importante è che si faccia le cose sul serio. Rispetto ai non performing loans stiamo studiando delle soluzioni. Il dato è meno grave di quello che viene percepito dai mercati. Il modo migliore per ridurre le sofferenze è far ripartire l'economia. Far ripartire l'economia dunque, ma anche accelerare le procedure di recupero crediti, dice Renzi, mentre chi gli chiede se l'Italia sia sorvegliata speciale dell'Europa risponde così. Io non credo che l'Italia sia la sorvegliata speciale dell'Europa. Le banche italiane sono solide, ce ne sono alcune sotto attacco, quindi non c'è un problema bancario in Italia in quanto tale. Ci sono alcune banche che devono cambiare. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E ci si aspetta forse, come già sentivate nella diretta di Borsa, che il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, dica qualcosa oggi nella conferenza stampa in merito proprio al tema delle banche più in generale, in particolare delle banche italiane. Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Alessandro, eccoci. Sì, beh, la Banca Centrale Europea è anche il supervisore delle banche dell'Eurozona, oltre a essere titolare della politica monetaria, per cui cercheremo di sollecitare Draghi su questo punto. Ricordiamoci che nell'ultimo anno la BCE ha fatto passare tutte le banche europee, le grandi 130 banche più grandi dell'Eurozona, sotto un esame molto severo. Poi ha fatto un altro esame, il cosiddetto SREP, che si è proprio appena concluso. Allora Draghi forse dovrà spiegare se lo stato di salute delle banche europee e in particolare di quelle italiane è quello certificato dagli esami della BCE oppure è quello che ritengono i mercati, che sembrerebbe disastroso a giudicare dai crolli delle ultime sedute. Quindi forse da Draghi si aspetta un messaggio di rassicurazione in questo senso. Allora Alessandro, intanto ti ringrazio per questo breve punto. Noi torneremo a collegarci con te, come sempre facciamo quando c'è un direttivo della Banca Centrale Europea, intorno alle 13.55 dopo America 24, proprio per capire se ci sono state decisioni di politica monetaria. Poi ovviamente tutto quello che avrà da dire Draghi sulle banche lo dirà eventualmente in conferenza stampa. A proposito di banche, c'è una notizia che è stata appena battuta dalle agenzie. La prima commissione del CSM ha riaperto l'istruttoria sul procuratore di Arezzo Roberto Rossi. La sua posizione era stata archiviata, lo ricordiamo, il CSM è l'organo appunto di autogoverno della magistratura. La decisione è stata presa dopo una lettera nella quale il procuratore ha scritto di essersi occupato in passato di procedimenti riguardanti Pierluigi Boschi, padre del ministro per le riforme, ma ha confermato di non aver mai avuto occasione di incontrarlo. Vedremo come andrà a finire anche questa storia. Ci occupiamo adesso di politica e cronaca internazionale per il caso della morte di Alexander Litvinenko, che è uscito un rapporto dalla Gran Bretagna che adesso scuote i rapporti appunto tra Mosca e Londra. L'operazione per uccidere Alexander Litvinenko venne probabilmente autorizzata dal presidente russo Vladimir Putin. È quanto conclude l'inchiesta pubblica britannica sulla morte per avvelenamento radioattivo dell'ex agente del KGB, divenuto poi FSB, servizi segreti russi, avvenuta il 23 di novembre del 2006, quando l'uomo aveva 43 anni e risiedeva da tempo a Londra. C'è una forte probabilità che i due killer che lo hanno ucciso fossero agli ordini dei servizi, dicono gli inglesi, e Sir Robert Owen, presidente della commissione, afferma che probabilmente dal Cremlino arrivò un via libera diretto. Maggiori dettagli arriveranno senz'altro nel pomeriggio, quando in Parlamento è atteso l'intervento su questo tema del segretario di Stato agli affari interni Theresa May. Gigi Donnelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Siamo alla cronaca, anche qua con una notizia arrivata da poco. Potrebbe essere ad una svolta l'indagine sulla scomparsa degli imprenditori Antonio e Stefano Maiorana, padre e figlio, spariti nel nulla a Palermo il 3 agosto del 2007. Gli investigatori hanno ritrovato nel corso di alcuni scavi una scarpa e un sacco con macchie rosse, ora sottoposti all'esame del RIS. Vedremo come andrà a finire questa vicenda. Nel frattempo c'è un'altra vicenda, quella di Pietro Maso, che è indagato a quanto pare per estorsione. Dalla lettera e la telefonata a Papa Francesco all'accusa di estorsione nei confronti delle sorelle. Si apre un nuovo capitolo nella storia di Pietro Maso, il veronese che nel 91, a 19 anni, uccise i genitori nell'abitazione di Montecchia di Crosara. Il capo della Procura di Verona, Mario Giulio Schinai, ha confermato che Pietromaso è indagato per tentata estorsione ai danni delle sorelle Nadia e Laura. Il fascicolo è in mano al sostituto procuratore Giovanni Pietro Pascucci, che ha ricevuto dall'Arma dei Carabinieri poco dopo Natale l'esposto denuncia presentato dalle sorelle di Pietromaso, condannato a 30 anni per il duplice omicidio dei genitori e libero dal 15 aprile 2013. In una recente intervista al settimanale Chi, Maso aveva rivelato che la decisione di uccidere i genitori non era dettata dai soldi dell'eredità, che avrebbe comunque avuto, ma da un non meglio precisato disagio. Aveva anche rivelato di aver scritto una lettera a Papa Francesco che lo aveva chiamato notizia non smentita dalla sala stampa del Vaticano. Ora il nuovo capitolo, una richiesta insistente di soldi alle sorelle, oggi imprenditrici, e lo storico avvocato delle due donne, Agostino Rigoli, annuncia a breve altre iniziative. Antonino Padovese, Radio 24, Sole 24 Ore, Verona. Prima di andare a sentire che cosa succede sulle strade, andiamo a sentire che cosa succede su quelle ferrate. È stato diffuso oggi il rapporto Pendolaria di Legambiente. Treni sempre più numerosi e veloci che si muovono tra Salerno, Torino e Milano, ma sono sempre meno gli intercity ed i normali collegamenti a lunga percorrenza. Per intenderci, quelli che impiegano anche 10 ore da nord a sud, viaggio pesante, ma per tutte le tasche. Nero anche il quadro dei collegamenti regionali, a fronte di 2.842.000 passeggeri al giorno. Lo conferma il rapporto Pendolaria 2015 di Legambiente, presentato a Napoli. E non è un caso, vista la situazione in Campania. Qualche esempio? Da Roma verso Milano, nel 2007 i collegamenti Eurostar al giorno erano 17, oggi sono 63, ma per le 120.000 persone che ogni giorno prendono i treni della ex circumvesuviana a Napoli, ci sono il 30% di corse in meno. Un altro dato è significativo: i treni regionali che circolano tra Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna sono meno di quelli della sola Lombardia. Anna Rita Lambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso, come si diceva, il traffico, poi nella seconda parte della trasmissione torneremo a parlare delle vicende delle banche, torneremo a parlare della pubblica amministrazione, degli 11 decreti varati questa notte dal governo, lo faremo col sottosegretario alla funzione pubblica Angelo Rughetti e poi più avanti sentiremo anche l'intervista all'avvocato delle sorelle di Pietromaso, a tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Le notizie di oggi: si è dimessa circa mezz'ora fa il sindaco di Quarto, Rosa Capuozzo, espulsa nei giorni scorsi dal Movimento 5 Stelle. È una sconfitta politica, la vittoria della camorra, dice. Mercati in recupero, Monte dei Paschi guadagna circa il 30%, Renzi al Sole 24 Ore, c'è una manovra su alcune banche ma il sistema è solido. E a proposito di banche, il CSM ha aperto una nuova istruttoria sul procuratore di Arezzo Roberto Rossi, il quale ha scritto di essersi occupato in passato di procedimenti riguardanti Pierluigi Boschi, quindi tutto relativo alla vicenda di Etruria. Il via libera del governo al concorso per 64.000 professori. L'esecutivo approva anche il decreto con le norme contro i fannulloni nel pubblico impiego. E poi il caso Litvinenko, arriva il rapporto inglese che accusa direttamente Putin, probabilmente l'ordine per l'assassinio dell'ex agente segreto partì direttamente da lui, sì, e aumentano le tensioni tra Mosca e Londra. E torniamo dunque a parlare di banche, lo facciamo con Marco Ferrando del Sole 24 Ore che ci ha raggiunti in studio. Marco, buongiorno e benvenuto. Grazie, buongiorno a voi. Allora, tutto questo, e lo abbiamo raccontato ampiamente anche nei giorni scorsi, è un pezzo delle tensioni che stanno attraversando i rapporti tra Roma e Bruxelles e forse è il pezzo in realtà più importante, perché il governo sta trattando da tempo con Bruxelles, da circa un anno, per ottenere la possibilità di creare una bad bank. Che cos'è la bad bank? È una struttura nella quale andranno ad essere messi i crediti delle banche in sofferenza. Cosa sono le sofferenze? Sono i crediti considerati non più esigibili. E la bad bank avrà poi il compito, la faccio molto semplice, di rivenderli. A che punto siamo, Marco? Ma sembra, stando alle parole di Matteo Renzi, che proprio oggi è stato, cioè ieri è stato intervistato dal Sole 24 Ore, le parole che abbiamo letto oggi sono incoraggianti. Sembra che effettivamente ci sia una proposta sul tavolo della Commissione Europea che possa essere accolta nello spazio di pochi giorni, perché quello che è accaduto da lunedì sui mercati dimostra che veramente non c'è tempo da perdere, non c'è un minuto da perdere. La Commissione europea da mesi, poi ci sono state molte letture anche molto critiche, probabilmente ragionevolmente critiche, la Commissione europea ha avuto sempre una posizione molto severa nei confronti delle proposte italiane, perché ha sempre visto la presenza di aiuti di Stato negli schemi che l'Italia presentava. La presenza di aiuti di Stato di fatto è una bestemmia per il diritto comunitario, perché vuol dire che si va a evidentemente violare la concorrenza, e quindi la Commissione ha il dovere di interrompere questo genere di operazioni. Però nell'ultima formulazione, come dicevamo, così dice anche il Premier al Sole, sembra che ci siano le premesse per un via libera. Un via libera che però, e questo è comunque una questione che si aprirà nel momento in cui vedremo nero su bianco le modalità di funzionamento di questo veicolo, ecco, uno schema che potrebbe però presentare comunque dei costi per le banche, perché se è conforme, come dire, al mercato, evidentemente si passa a un problema di prezzi che devono essere quelli di mercato e quindi molto bassi. E questo... Perché, lo spieghiamo agli ascoltatori ancora una volta, nel momento nel quale questi debiti, diciamo così, che sono debiti un po' di tutti, delle persone, delle imprese, insomma di tutti quanti, devono essere rivenduti, ovviamente non possono essere venduti al prezzo nominale. Nel momento nel quale un debito di 100 verrà rivenduto magari a 20, e io, chi lo compra conta di incassare 25 e di guadagnare quei 5 in sostanza. Esatto, perché la banca, quando fa un prestito, finché il prestito è sano, diciamo così, nel senso che chi il debitore continua regolarmente a versare le rate, rimane a bilancio a 100, quindi io ricevo un prestito di 100 euro, finché pago le mie rate quel bilancio vale 100 euro nel bilancio della banca. Nel momento in cui però magari comincio a ritardare, a sospendere il pagamento, a non farmi più trovare a casa, progressivamente il credito viene svalutato finché diventa una sofferenza. E questo è il punto, perché nel momento in cui la sofferenza deve essere trasferita a un soggetto specializzato nel recupero crediti, questo soggetto specializzato, che fa un lavoro molto brutto, è disposto a pagare un prezzo molto basso, che spesso è molto più basso, la metà anche di più, di quello che le banche ancora ce l'hanno in bilancio. Per cui prima si diceva, esempio 100 euro, mediamente, parliamo del Monte dei Paschi, che, come dire, è emblema di questa situazione, ha i suoi crediti in sofferenza svalutati a 40 euro, se non che il mercato mediamente è disposto a pagarglieli 10-20 euro, e quindi moltiplicato tutta questa situazione per 40 miliardi, perché non dimentichiamo che il monte è finito nell'occhio del ciclone, perché la banca più esposta sulle sofferenze, diventa un potenziale buco di capitale, ed è il motivo per cui il mercato è venduto. Ti ringrazio, grazie a Marco Ferrando del Sole 24 Ore, anche per questa chiarezza, perché serve ogni tanto, oltre che spiegare quello che succede, raccontare la cronaca, anche spiegare che cosa c'è dietro tutto questo. Ringrazio per l'attesa, ma spero che l'approfondimento sia stato interessante anche per lui. Angelo Rughetti, sottosegretario alla Funzione Pubblica, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, Rughetti, l'abbiamo chiamata ovviamente perché nella notte il Consiglio dei Ministri ha varato questi 11 decreti sulla pubblica amministrazione, di attuazione della riforma della pubblica amministrazione, a partire da queste norme antifannulloni, per così dire, dove c'è un irrigidimento piuttosto netto, mi sembra di capire. Abbiamo letto, nei casi più gravi c'è la possibilità anche di, oltre che di licenziamento immediato, di rivalersi direttamente sul dipendente pubblico con 6 mesi di stipendio. Ma come si accertano questi casi più gravi, Rughetti? Ma allora, intanto diciamo che noi facciamo un intervento che non è un intervento spot o un intervento propagandistico che serve per dire che i dipendenti pubblici sono fannulloni, ma facciamo un intervento, diciamo, che ristabilisce un minimo di equità, cioè quando c'è qualcuno che commette un errore in modo plateale, cioè timbra un cartellino davanti ad una telecamera o davanti ad un suo superiore, poi lascia il servizio, l'ufficio, e se ne va per i fatti suoi, in questi casi noi, diciamo, pensiamo che l'ordinamento, lo Stato, la pubblica amministrazione deve rispondere immediatamente, quindi subito, accorciando quindi molto i tempi che prima erano a disposizione di chi agiva, facendo pagare e tre, quando ci sono casi pesanti, anche ricorrendo al penale. E quindi questo è quello che è stato fatto con la norma approvata questa notte, con la quale sostanzialmente in 48 ore si toglie al dipendente lo stipendio perché viene sospeso e in un mese, se ne ricorrono le condizioni, quindi dopo il procedimento disciplinare, viene licenziato. Se viene creato un danno d'immagine, come per esempio è avvenuto al Comune di Sanremo, al Museo delle Arti Popolari qui a Roma, e quindi si crea questo danno, viene chiamato a rispondere per un valore fino a 6 mensilità. E la terza condizione, che secondo noi è l'elemento più determinante, chiamiamo in causa i dirigenti. Cioè, il dirigente non si può più girare dall'altra parte, deve agire, e se non agisce fa un'omissione d'atti d'ufficio, con tutto quello che ne consegue dal punto di vista penale. Benissimo, questo il punto generale. Ovviamente la cosa si sottoporrà, come lei immaginerà, Rughetti, conoscendo il paese che è il nostro, ad una serie di passaggi in tribunale. Diciamo che ci sia poi il corso della giustizia, sia dal punto di vista del rilievo penale di questi comportamenti, sia dal punto di vista delle resistenze, dal punto di vista proprio del diritto del lavoro. Questo fa parte del nostro ordinamento, della nostra Costituzione, perché nel pubblico impiego, ricordiamoci, si accede per concorso, e quindi si crea una tutela già a livello costituzionale rafforzata nei confronti dei lavoratori. Però a noi quello che serviva in questo momento è ristabilire un principio. Il principio è che chi sbaglia paga. Non è più possibile pensare che la pubblica amministrazione, siccome di tutti non è di nessuno, e quindi qualcuno può arrogarsi il diritto di avere dei comportamenti menefreghisti o addirittura che mettano nel ridicolo, no, il sistema pubblico. Questo è un modo per ristabilire un concetto. La pubblica amministrazione è una cosa seria, serve ai cittadini, serve soprattutto a chi sta più indietro, no, chi più ne ha bisogno della PA, quindi è giusto che se qualcuno tradisce questa fiducia vada a casa. Allora, dato che non potremo affrontare tutto, Rughetti, nello spazio che abbiamo, la voglio portare su un altro singolo tema, che è il grande tema delle partecipate. Oggi il Presidente del Consiglio, in conferenza stampa, è tornato a ribadire quello che finora avevamo visto come sostanzialmente solo uno slogan: le partecipate pubbliche verranno ridotte da 8.000 a 1.000. Sappiamo che nelle partecipate pubbliche si annidano ovviamente tante perdite, tante disfunzioni, anche tante assunzioni, l'abbiamo raccontato spesso, di politici trombati, per dirla proprio brutalmente, o di amici di politici trombati. Verranno ridotte da 8.000 a 1.000. Ci spiega il criterio, Rughetti? Allora, il criterio era già contenuto, diciamo, nel nostro ordinamento, perché la legge di stabilità dello scorso anno, fatta da questo governo, aveva già previsto che le partecipate che hanno un numero di dipendenti inferiore al numero di consiglieri di amministrazione, e uno dirà ma sì, ma saranno poche centinaia, no, sono più di 3.000, le partecipate che fatturano meno un milione di fatturato, le partecipate che vanno in perdita 3 anni su 5 devono essere chiuse. La differenza con queste norme dal passato, quelle approvate questa notte, dove sta? Sta nel fatto che noi creiamo una norma di chiusura per far sì che questa cosa avvenga realmente e avverrà in modo reale, perché ci sarà una struttura del governo dedicata a monitorare comune per comune, ente per ente, amministrazione per amministrazione. Quando ricorrono questi criteri, gli si darà un alert dicendo guarda, sì, siete dentro questi criteri, chiudete, se non lo fanno loro lo facciamo noi. Lo fate direttamente voi. Chi la guiderà questa struttura, Rughetti? La guida il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che sceglierà ovviamente al suo interno il dirigente più adeguato a svolgere questo ruolo. A svolgere questo compito. Quindi intervenite voi d'imperio, in sostanza, nel momento nel quale questo non viene attuato. Che tempi immagina per una prima riduzione rapida? Beh, noi ci siamo dati come termine il 31 dicembre di quest'anno. Immaginiamo però che già nei prossimi 90 giorni di poter già portare un elenco delle aziende che avranno subito, diciamo, l'applicazione di queste norme, quindi un primo elenco delle aziende chiuse. La ringrazio, grazie Angelo Rughetti, sottosegretario alla funzione pubblica, per essere stato con noi. Le auguro buona giornata e buon lavoro. Noi adesso ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo, come sempre, per fare un punto sui mercati. E poi la vicenda, ve l'abbiamo anche raccontata nei titoli, Pietro Maso, che massacrò i genitori nel 1991, nel 2013 è uscito dal carcere, negli ultimi giorni telefonata col Papa per ottenere perdono, poi la copertina su chi? Ebbene, abbiamo appreso che è indagato per estorsione. Parleremo con con l'avvocato delle sorelle, che per questo hanno presentato un esposto. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, le notizie principali dopo settimane di tensioni, dopo l'espulsione dal Movimento 5 Stelle si è dimessa il sindaco di Quarto, Rosa Capuozzo, dice è una sconfitta politica e la vittoria della camorra. I mercati sono in recupero, oggi lo è anche Monte dei Paschi, Renzi parla al Sole 24 Ore, dice c'è una manovra su alcune banche ma il sistema è solido, potrebbe essere vicino l'accordo sulla Bad Bank, come vi abbiamo raccontato poco fa, con l'Europa. L'esecutivo intanto ha dato il via libera al concorso per 64.000 professori e ha approvato anche il decreto con le norme contro i fannulloni nel pubblico impiego. Il caso Litvinenko, arriva il rapporto inglese che accusa direttamente Putin, probabilmente l'ordine per l'assassinio dell'agente segreto partì da lui. Apple investe in Italia, sarà Napoli il centro europeo per lo sviluppo delle applicazioni per il sistema operativo di iPhone e iPad, tra poco ne parleremo con l'assessore. Intanto la borsa. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, parliamo dunque, come già si diceva, del caso di Pietro Maso, che fu condannato, come sapete, come ricorderete, per aver massacrato i genitori nel 1991, nel 2013 ha finito di scontare la pena, è uscito dal carcere e ha fatto negli ultimi giorni, è salito all'onore delle cronache per così dire, perché insomma è andato in copertina su Chi a raccontare se stesso, poi una telefonata a quanto pare col Papa non smentita dalla sala stampa vaticana per ottenere il perdono e poi però oggi si è appreso che è stato indagato per estorsione su un esposto arrivato dalle sue sorelle. Abbiamo sentito l'avvocato delle sorelle chiedendogli innanzitutto che cosa hanno denunciato. Capisco diciamo, la sua domanda, però per il momento non le posso rispondere perché l'esposto che è stato presentato direttamente dalle sorelle ai carabinieri e dall'arma inoltrato alla procura di Verona è ancora coperto diciamo, dal segreto istruttorio. Mi spiace di non poterle essere utile, però non posso entrare nei dettagli. Non può entrare nei dettagli, comunque l'accusa è di estorsione, mi sembra di aver capito. Ho tentata estorsione, non necessariamente nei confronti delle sorelle, ma può darsi che sia anche questo tentativo rivolto a terze persone. E quindi è possibile che ci siano coinvolti, che siano coinvolti altri soggetti? Può darsi che, da come ho capito io, che i destinatari di questa diciamo tentativo di estorsione non siano direttamente le sorelle, ma che le sorelle siano molto preoccupate di questo comportamento del fratello che a loro ricorda un comportamento tristemente noto prima dell'episodio dell'omicidio dei genitori. Hanno trovato delle anomalie in comportamento del fratello con un comportamento che lo stesso aveva all'epoca dell'omicidio. Ok, hanno trovato quindi come se non fosse cambiato, diciamo così, e avesse assunto lo stesso tipo di comportamenti di prima del 1991. Diciamo che il loro timore è che si sia ripetuta quella patologia, se patologia è, che portò il fratello all'omicidio dei genitori. Sempre se si tratta di patologia. Sempre se questo disturbo diciamo bilaterale che era stato diagnosticato credo dal professor Andreoli. Hanno ricevuto dei segnali in questo senso le sorelle conoscendolo, questo ci sta dicendo? Certo che sì. Hanno ricevuto. Questo lo posso dire e sono preoccupate. Sono preoccupate e per questo hanno presentato un esposto. Quindi, come dire, da quel che ci sta dicendo, ovviamente rimanendo sempre più sul più vago possibile. In sostanza non sarebbero le sorelle, le persone, le destinatarie della tentata estorsione. No, però le sorelle sono venute a conoscenza di questo episodio e vedendo nel comportamento del fratello segnali preoccupanti, hanno ritenuto necessario, doveroso segnalarlo all'arma dei carabinieri. E questo dunque Agostino Rigoli, avvocato delle sorelle di Pietro Maso. Ci fa piacere chiudere con una bella notizia, anche se abbiamo pochi minuti. Saluto Enrico Panini, assessore al lavoro e allo sviluppo del Comune di Napoli. Buongiorno e benvenuto. Per un breve commento della notizia arrivata oggi, tanto dalla Apple quanto dalla conferenza stampa del Presidente del Consiglio Renzi, che ha annunciato che Apple metterà un centro europeo per lo sviluppo delle applicazioni proprio a Napoli, con 600 posti di lavoro creati. Quando vi è arrivata la notizia, assessore? Guardi, anche noi l'abbiamo appresa esattamente in queste ore, nel senso che non ci sono stati degli incontri precedenti. Dopodiché, diciamo fin da ora all'amministratore, al CEO di Apple, Tim Cook, che noi siamo a sua disposizione, saremo onorati di poterlo incontrare quanto prima, e sappia che l'amministrazione è pronta a soddisfare bene rapidamente ogni esigenza per realizzare al meglio un progetto, quello dell'Apple, che è una grande azienda e un potente motore di crescita. Inutile che le dica che è una notizia che ci ha riempito assolutamente di orgoglio. C'è già un'idea sulla collocazione? No, ancora no, pensiamo ad un qualche istituto, alcuni pensiamo di averli individuati, ma come dire, sarebbero delle boutade da parte nostra, quindi aspettiamo l'annuncio ufficiale. Se mi permette, prego, un peso di tempo, due valutazioni. Mi spingo a dire che da un lato, a mio avviso, la scelta di Apple tiene conto sicuramente, lo dico perché abbiamo avuto altri rapporti di questa natura, di un terreno fertile e avanzato sui temi dell'ICT, dell'innovazione e della ricerca, di una città creativa per antonomasia. Abbiamo un contesto universitario molto importante e c'è sicuramente una rinnovata percezione della città dalla parte della grande stampa d'oltreoceano. L'investimento sulla scuola è una cosa rilevante e in più è un investimento importante in sé. Mi raccomando, assessore, allora siamo d'accordo su tutto questo, in 10 secondi, mi raccomando, niente ostacoli amministrativi, non vogliamo trovarci... Non vogliamo trovarci a raccontare le solite storie italiane per cui arriva Apple e poi subito intendiamo soddisfare bene e rapidamente, e disponibili a dare conto a lei e agli ascoltatori di questo impegno che assumiamo pubblicamente. La ringrazio, grazie Enrico Panini, assessore al lavoro e allo sviluppo del Comune di Napoli. Traffico, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti. Anzi,